Quanti sono i bambini orfani in Italia? Incredibilmente nessuno lo sa con precisione. Non c'è nessun ente nazionale né ministero che se ne occupi. L'Istituto degli Innocenti, che cerca di monitorare la situazione, dice che sono 25.000, ma ammette che molte regioni non forniscono i dati o danno informazioni lacunose. Per l'associazione Amici dei Bambini, invece, sono 35.000, uno scarto di 10.000 bambini. Se qualcuno sparisse, non se ne accorgerebbe nessuno. Il presidente Marco Griffini parla di scandalo italiano. Vero ma assurdo, noi non sappiamo nemmeno quanti sono i minori collocati fuori famiglia in Italia. E sappiamo quanti sono i cani randagi, non sappiamo quanti sono i minori fuori famiglia. D'altra parte, a livello centrale, un altro assurdo, la legge sempre della chiusura istituti, la 149 del 2000, ha previsto una banca dati a livello nazionale. Questa banca dati non è ancora stata fatta, quindi noi non sappiamo oggi in Italia non solo quanti sono i minori fuori famiglia, ma addirittura nemmeno quanti sono i minori dichiarati adottabili, quelli che i vari tribunali, i 27 tribunali hanno a disposizione. E qui cosa viene fuori? Che se il tribunale di Palermo dei minori ha una bambina dichiarata adottabile, che non so, di 11 anni, 12 anni e che nessuno ha voluto in Sicilia, questa bambina resta abbandonata in Sicilia perché magari, non esserci la banca dati, nessuno va a vedere se nelle altre regioni, magari in Lombardia, c'è una coppia disponibile ad accogliere questa bambina. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore.